via. E il MacPetro ci porta nell'occhio all'avventura, verso l'ignoto correva come un fulmine e in aria si trasforma in un robot che ha un'arma all'energia solare che è invincibile. Titan, Titan, arriva già il nemico, scatta, ma tu ci sei amico, Titan, evviva Titan. Robot energia solare.